cosa incontrerà. Che cosa incontrerà a un appuntamento che vuole rimandare? Frasi già sentite che non vuole ascoltare, che non vuole ascoltare. Macabra commedia ci tocca recitare. Thank you.